Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Condussero dunque Gesù al Golgota, che significa luogo del cranio. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Signore, i soldati hanno inchiodato alla croce il tuo corpo. Guardandoti, tu apri i nostri occhi per farci capire che ogni peccato, anche minimo, inchioda il tuo corpo. Signore, la tua croce e le tue piaghe parlano. Tommaso, guarda le mie ferite. Ecco Gesù, guardo e metto tutta la mia vita nelle tue piaghe. Concedimi la grazia di innamorarmi delle tue ferite. Dona a tutti noi la grazia di voler guardare continuamente a colui che abbiamo crocifisso, a te che hai nascosto e protetto le nostre vite sotto il manto del tuo amore. Grazie Gesù, perché hai scritto i nostri nomi nelle tue piaghe. Le ferite sul tuo corpo mistico sono causate dalle nostre debolezze. Possano le tue piaghe guarire la Chiesa e questa generazione. Fa, Signore, che le tue ferite diventino la cura per guarire la nostra fede, la preghiera, il nostro amore. Grazie, Gesù. Vogliamo pregare perché le tue piaghe siano una medicina per il cuore del Papa, dei Vescovi, di tutti i responsabili della pace nel mondo. Oggi più che mai vediamo come il martello del male colpisce il chiodo del peccato e inchioda il tuo corpo. Tanta immoralità, droga, alcol, tanto egoismo, gelosia e violenza. Tutto questo causa la tua crocifissione. Signore, sarò io capace di vincere le debolezze che sono in me? Quando si sveglia in me il male, come posso inchiodarlo? La tua madre Gesù ce l'ho insegnato, con la preghiera, le veglie, il digiuno. Ti supplichiamo affinché il digiuno non sia rifiutato da alcun laico o sacerdote. Il digiuno apre gli occhi e cambia il cuore. Il digiuno possa diventare la nostra arma per partecipare ancora più consapevolmente all'Eucaristia e ai sacramenti della Chiesa. Gesù, Padre e Maestro mio, ho bisogno del tuo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa che il tuo materno affetto per il figlio benedetto mi commuova e infiammi il cuore.